La morte della gente del Sismi è innanzitutto una tragedia, un fatto che ci addolora molto e che ci spinge a rendere omaggio a chi serve il paese nelle condizioni estreme di pericolo, cosa che io ho fatto inviando un messaggio ai familiari, all'ammiraglio Branciforte,